e poi vabbè i soliti pezzi che giravano, perché già consideravo Technics, Pioneer, Iowa, sì, vabbè lasciamo perdere, poi il letto di Philips già li consideravo obsoleti, capito? Anch'io sono cascato nella cosa del digitale, pensa tu. Sì, sì, e poi aspetta che cacchio si ha preso, da poco che non le ho mai sentite, le CSB, quelle grosse, le 705 706, quelle enormi, alte 2 metri, che costavano una cifra di ingegneria giussale, non so se le conosco, penso di sì, che sono casse da paura. Le conosco bene. Ascoltate poco, poi hai citato Audiolinea, molte delle cose più belle le ho sentite lì. Passavo lì, ero un bambino, però passavo lì per ascoltare, mi avevano preso in simpatia, perché potevo entrare, fermarmi, vedere, raramente ho acquistato, anche perché ero un bambino, ti ripeto, parlo di 10 anni, 11 anni, capito? E poi più avanti ho avuto altri giri, ho scoperto che certe cose che trovavo da Audiolinea le potevo comprare più serie di altrove, anche perché frequentavo Roma. Niente, comunque questo veramente è un sacco di roba, ma hai intenzione di vendere molte cose? Sì, c'ho l'elenco, se capita se te lo faccio avere. Vuole vendere un sacco di roba perché non gli frega niente, nel senso ci ha tenuto le cose che gli interessano, ci ha tenuto le tannui e forse c'è un altro Mark Levinson, una coppia di Mark Levinson, doppio mono, diciamo, due canali, poi le BMW, quelle DM, adesso non mi ricordo che modo, ne ha tante di roba, ma poi c'ha anche cose che, per dire, marchi conosciuti tipo Philips, però sono cose rare, valvolari, delle cose allucinanti. Io ho avuto il piacere di essere amico di Coso, di Paolotto. Paolotto, non so se te lo ricordo. Campari, Umberto. Era Umberto, era concessionario ufficiale della Marantz, oltre che Pioneer, e portava tutti i pezzi della Marantz, tutta la linea, perché quando c'hai soldi puoi comprare tutta la linea, dal più piccolino sino al grande, c'aveva tutto. Poi ha portato le macchine dimostrativi, noi avevamo una piccola, noi, io e mio fratello, una piccola saletta da ballo qua vicino dove abito io, per cui la roba a noi non ci mancava mai, amplificatori, casse, qualunque cosa ci dava tutto, lui era lo sponsor nostro, perché eravamo amici, abbiamo frequentato tanti anni insieme, lui e anche la sorella, e il Marantz infatti che c'ho ancora e me l'ha mandato lui, e che è una bestia, cioè capito, te lo faccio vedere, vi mando le foto, che non ce ne sono in giro di quegli amplificatori, era il top di gamma della Marantz prima di arrivare a tre finali separate, era il numero uno quello lì. Dopodiché mi aveva dato delle casse elettrostatiche, pannello elettrostatico per le vie superiori e sub inferiori, erano casse americane, non le Janssen elettrostatiche, costavano una cifra da paura, all'epoca costavano 1.400.000 lire l'una, stiamo parlando che uno stipendio era di 500.000 lire, 600.000 lire di allora, erano delle casse degli anni 80, erano, si può dire, quasi regalate, che poi erano i campioni che mandavano a loro. E da lui ho visto, mai visto in vita mia, da altre parti, un piatto, non so se te lo ricordi, lo conosci, il transcriptor dei piatti. No, transcriptor no, non mi torna, non l'ho bevuto in mano, vabbè, io sono nella scuola Torrens, mi sogno qualche pezzo che ho avuto, però transcriptor no. Da dove viene? Allora, Transcriptor è un marchio svizzero, come tu parli di Stellavox, di marchi così, stiamo parlando di cose super professionali per amatori, tutto controbilanciato, trazione a 5 con motore separato, piatto in presso fusione, una cosa allucinante, ci potevi attaccare non so quanti piatti, tu devi vedere come era fatto questo qua, sembrava una cosa di un orologio antico, cioè presente quegli orologi da torre, questa era una cosa allucinante, tutte le pulegge, tutto a vista, tutti i meccanismi a vista, ed era su una base in cristallo, era una cosa da paura, ce l'aveva lui in vetrina, forse solo c'è chi scrive Transcriptor, era il top di gamma di quella, ma stiamo parlando di piatti che costavano all'epoca 3 milioni, cioè c'è cose fuori dal mercato, cioè aveva portato lui come dimostrazione quello lì, e ogni tanto tirava fuori queste cose, poi avevo portato queste casse, ce l'avevano date, ce l'è ancora, a tre bufferoni grossi e più i twister sopra, e a buffer da 30, enormi, una bestia, e poi mi aveva dato un altro amplificatore, un registra registratore a cassette, però da tavolo, della Panasonic, con l'autoreverse, eccetera, quello lo mettevamo quando dovevamo fare le serate per registrare quello lì. Ma cosa non ha portato di casse e di cosa non abbiamo bruciato, anzi, di casse e di amplificatori? No? L'unico che ha durato, che non si è crepato, è il Marantz. Mentre purtroppo quelle casse lì scemo, tornando indietro, siccome erano casse poco efficienti, volevano quelle elettrostatiche che vanno alimentate a 220, anche noi per fare i fighi le sollevamo a manetta, se tiravamo gli altri, abbiamo fatto uscire il fuoco, ha incenerito il coso, il pannello elettrostatico. Infatti ho detto, mamma mia, che fastidio, cazzo, portava una barca di su proprio da incoscienza. Ogni danno, cioè, cassa praticamente irreparabile. No, poi avevo scritto, ha partito trasformatori, perché c'hanno queste casse, erano alimentate a 220 volt e c'erano dei trasformatori per i pannelli elettrostatici, ma efficienza pari a 83 dB, una cosa bassissima, però un suono spaventoso, cioè non ce n'è per nessuno, però il problema degli elettrostatici non scendono in basso, per cui qua li avevano messo, al contrario delle quadre li avevano messo i subwoofer sotto, ma un suono da paura, proprio una nitidezza, le voci, gli strumenti da paura, cacchio, io facevamo con un amplificatorino della Technics piccolino, cacchio, tutto esaltato di tuni, tribadio, buttato via, rimasto tanti anni fermo, tu vuoi vedere quanto erano grosse e pesanti queste casse. Alla fine, qualche anno fa, ho preso queste ragionamate, erano tutte marcite, erano rimaste in una cantina, un peccato, un lavoro poi di costruzione dentro da paura. Che peccato, purtroppo quelle cose che vanno così, c'è poco da fare. Mia padre mi chiama, mi dice, ma so, non c'è un coso così, ma mi serve spazio, posso, cosa ne fa? E cosa gli dico? Gli ho tenuto la casa occupata, il garage e la cantina occupata da questa roba. Ma se in buone condizioni te voglio un posto, se vedi che ti è sceso qualcosa, dovete la piatta, è caduto. Non ho capito di cosa ne stai parlando, ma ti serve spazio, butta. E fu così che mi ha buttato le CS, cioè me sto piangendo ancora, capito? Cos'erano BR40-45, che modello? BR1030 con Peter praticamente e SB7000 e woofer-ciare e passivo specifico, però avevano un suono, cioè erano due vie, aprivano tre vie, erano due vie, cioè avevano questa rettina che è l'unica rettina al mondo che solamente se la togli non ti prende il suono, cioè non so come dirti, prendi ci buttare le CS, un giorno passo in garage, guardo, ma anche quelle sono grandi, perché non le vedo? Ma che fine hanno fatto? Ma niente di buttarle, oh yeah. La selezione delle gambe, le braccia, vai Torino e poi Riccardino, scusate monopolio, ma quando sento argomenti di genere è un po' c'è stimolante, vai Torino. Andiamo per me, riguardo qui. Torino, sì. Torino! Riccardino, stiamo monopolizzando, mi dispiace magari qualcuno, ieri quando avanti ieri eravamo da soli e Fabio siamo stati due ore parlando, anzi venerdì notte a mezzanotte e 10, quando ho detto Riccardi 2 minuti e me ne vado, erano mi pare le 10:15, alla fine parlando da 2 minuti ce ne siamo andati a mezzanotte e 10, parlando di argomenti audio e c'è cose simili, di autoradio. Vi capisco, io di autoradio non mi intendo molto, l'unica cosa che so è che ho l'impianto Alpine, boh. Cosa c'hai a casa di impianto wifi? Ne ascolti musica o tuo babbo? No, babbo, di più. No, in macchina è. Ah, non ce l'avete un impianto a casa per ascoltare la musica? Casse separate, amplificatori, eccetera. Sì, casse ne abbiamo, me le voglio mettere però per la postazione. Praticamente sono le colonnine, quelle sono anche alte, non so se le conosci. Le altre cerco io, no, non mettere roba grossa, non ti serve tanto, non riesci a pilotarci, perché ci vogliono casse abbastanza sensibili, se metti troppo grandi con l'uscita delle cose, della colonnina della radio, dell'amplificatore, o decimi dell'amplificatore, dell'apparato non riesci a pilotarle, magari non senti niente. Sì, il capo c'era per una prova, sì, però le aveva coperte babbo e sono ancora da usare, ce le abbiamo ancora in scatola, bisogna provarle, perché voleva ascoltare musica e poi si è dedicato ad altro. No, ho già telemesso, io l'ho fatto, già ne ho più di uno di paio di casse, basta una piccolina, poi importante che c'è un'impedenza magari adeguata per quella cosa lì, anche il 4 ohm va bene, e un altro parlantino che ha almeno 10 cm in modo che puoi sentire anche le modulazioni chiare, perché quell'altro parlante dell'apparato che stai utilizzando tu è piccolino, sarà 4 cm, dentro una scatoletta in metallo e tutto, le modulazioni sono un pochettino, poi mi ha detto c'è quello della IAESU, ma quello va bene in macchina in un angolino, ma assolutamente per ascoltare le modulazioni non hai fedeltà. No, ma come per ascoltare la maggior parte degli amatori, ascolto questo periodo è anche periodo di contest, senti più modulazioni. Sì, ma ti ripeto, siccome quello lì è dedicato un po' per i toni acuti, i bassi, i cosiddetti bassi, perché non ci arrivi a sentire i bassi, però le modulazioni medio-basse, ti senti in prevalenza gli acuti con quell'altro parlante lì, per cui se vuoi un suono naturale, non c'è, quando ti cadono un controllo, fino a un certo punto lo puoi dare, perché senti in prevalenza le tonalità medio-acute e le acute, per cui tutto il resto della banda di coso, li ascolto o non lo ascolti, cioè non riesci a tenerla naturale. C'è da dire che la risposta qua della M dei baracchini è da 300 a 3000, per cui è molto limitata, poco più di un telefono di quelli normali. Già lo so. È citofonica, diciamo, la modulazione, per cui anche se ci metti un impianto stereo con casse di altissimo pregio non le fai funzionare, per cui devi trovare un altoparlante dedicato che riesca a rispondere in quell'arco di frequenza, dai 300 ai 3000 Hz, diciamo la tonalità della voce umana, però non di più, perché anche se ci metti dei cassoni che arrivano con i tweeter a 20.000 Hz o che scendano sino a 20 Hz per il basso non li puoi sentire, perché non te lo permette il tipo di emissione. Ho capito. Ma Roberto, adesso stai usando la Donis? No, adesso sto usando il 960. Sì, è registrato il break, perché Erika? Cosa? Avanti il break, ho detto. Sta andando male. Sì, già lo sento. È andato malissimo Gianni, ben sentito, ma sei tutto saturo, tutto rumoroso, io non ho capito, ci avevate avanti ieri una radio da paura, Gianni, mi devi spiegare per quale motivo l'avete tolta, con l'MB più 4 era una radio da paura, senza aiuto, senza niente, arrivavi 9 più 10 pulita, la radio 5 perfetta, adesso ne avete tirato fuori questa altra radio, tutto rumoroso, non si capisce niente. Meglio, ma non è una modulazione naturale, è troppo, sembra che stai parlando con dentro un tubo tu, una voce chiusa, cuppa e basta. Tu con la telefona della Salima, se ti ho detto arrivavi 9 più 10 qua, agli altri magari li arrivavi 8, però tutti hanno detto che la radio era perfetta, 5. Adesso il segnale è più forte, se 9-15, però la radio è negativa, cioè è brutta. Mi dispiace dirtelo, Gianni, già lo sai che io se ci sono difetti te lo dico, però avevi trovato l'ottimus della regolazione perfetta, usciva con 10 watt anziché magari con alcuni watt in più come adesso, però la radio era pulita e chiara. Quasi 9 più 10, se la radio non è 5, cioè è sempre 5, però non è perfetta, la radio è chiara tutto quanto, però c'è un pochettino di compressione, sento questo così parla la voce un po' cupa, però l'altro che avevi, non mi ricordo che cosa era, ricordami. No, diciamo, tu c'hai la voce un po' grossa, con questo tipo di microfono te la fa ancora più coso, più cupa, non so a che distanza sei da dove stai parlando, però è diciamo chiara rispetto a prima, però eri troppo chiuso. Aspetta, volevo chiamare di nuovo a Tonino, ci sei ancora? Mi dispiace se sei allontanato, forse abbiamo monopolizzato troppo, dai. Ok, vediamo Riccardino se ci sei, vediamo di far rientrare poi a Fabio, se c'è, rimango qualche minuto e poi vado via. Rientrato. Eia, è entrato anche Capri adesso, vediamo Riccardo. Eia, comunque saluta Capri, ciao Gianni, ben ascoltato, se stai uscendo Distorto, l'altro giorno sembravi sotto casa, stavi andando benissimo con quella radio. E vabbè, comunque rimetto il cambio per Fabius. Gaffa, diciamocela tutta, non ha nulla a che vedere con la radio che ho sentito, la radio meravigliosa che ho sentito io. E io ho pensato, caspita, proprio a detto poi vorrei uscire io così, ho pensato. Però oggi sì, il livello si è alzato, il segnale è buono, ma non ha nulla a che vedere con quello che era prima. Cioè siamo passati proprio a un apparecchietto da 30 euro e prima stanno uscendo con 3 milioni di K a confronto, capito? Fabio, c'è un modo per dirlo facilmente. Dalle stelle alle stalle o dalle stalle alle stelle? Avanti Gian. Cacca, adesso è un'altra musica, eh. Almeno la radio è naturale, cacchio, si sente chiara, pulita, c'è le tonalità, quelle che devi avere. L'altro è il cupo, all'inizio addirittura attaccato, sembrava che stai parlando dentro un tubo ovattato pure, neanche di quei tubi che fai il rumore tipo camera, ecco, tipo riverbero, era proprio chiusa completamente. Adesso la modulazione, naturalmente tu ti devi un po' regolare come distanza, perché sennò anche tu distorci un pochettino, però la radio almeno è pulita, 5 segnali quasi 9 più 10, ne ascoltiamo tutti, per cui cosa vuoi di più dalla vita? Già, mi spacca si quattruito al microfono e non tocca più nulla, per carità, guarda, si sta quattruito al microfono e sei sì, al top, capito? Al top, top, top. Non è Tonino, era Fabio Gianni. Facciamo riprendere a Riccardino. Dilli Riccardino cosa ti dicono a te quando non devi toccare. No, tocca se è un motto che si è messo sulla 27. Lascia stare, metti la ceralacca o cosa c'è, l'attacco, i mastici, di qualunque genere di prodotto che ti blocchi tutto. E se possibile anche le mani, in modo che puoi utilizzare solo, ti fai un braccio lungo in modo che non tocchi manco il microfono. Con un braccio lungo, che non, ossia che per sbaglio tocchi il Mickey Game. No, si dice, ho piombato tutto. Ok, avete parlato in due comunque Riccardino, ma mi piace perché c'è una voce bella potente, non è distorta, e quella è la cosa importante, forte e chiara, come dice qualcuno, è inutile avere forte e distorta, questa è chiara e forte, recoaro, come diceva una pubblicità. Vai Davide, chi sa Davide, che mi entra in testa Davide, Fabio. Cappa, così recoaro facciamo anche tanta pin. No, dai, l'ho sentito con l'antenna fusa, la radio a meno uno, lo smitter che continuava a sbattere sullo zero fino a rompersi, adesso arriva, oltre il 9 con dei picchi che solleticamente 30, una radio precisa, fedele, chiara, piacevole, ti prego davvero, piglia una stesolante, non lo so, sigillante, Baltic, dai a tutto così, non tocca nulla, non tocca nulla. Ok, riprendo per chiudere, dai. Mi dispiace che siete entrati adesso, da poco Claudio e Gianni. però ci siamo divertiti, dai, domani si lavora, per cui devo essere un pochettino più riposato. Ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Riccardino, ciao, come si chiama, Fabio, è stato un piacere ascoltare e fare questo con voi, ci sentiamo in altre occasioni, corretti da parte mia, chiudo a prossimamente. K Roberto, salutoni, è un piacere, ci sentiamo anche meglio, magari ci molliamo in queste discussioni che sono sempre molto interessanti, molto molto molto, è stato sempre un piacere parlare con te, parlare di questi argomenti. E niente, poco detto con tutto, avanti Riccardino per i saluti. Ok, grazie Fabio per il mic, saluto a Roberto e buona scarica utile, vabbè, ci vediamo domani, ciao Roberto, metto il cambio a te o muro. L'elettronica è sempre importante e bella perché ti apre la testa, ti mette a ragionare e si apre una grande di passione, poi alla fine vabbè, per me è diventata una edizione, da bambina facevo questa cosa, tante volte l'ho odiata e non l'ho mai mollata, ho cercato di mollarla, non ci sono mai riuscita, però l'elettronica si inizia a metterci le mani, a vedere che quello che fai ha i suoi frutti, a costruire qualcosa eccetera, è micidiale. Chissà, anche Riccardino magari inizia a prendere mano al soldatore, o Riccardino? Sì, a proposito di elettronica, ma vabbè, forse vediamo domani, per questo cavo VGA, secondo te può essere sostituito da una presa SCART? Un VGA che viene sostituito da una SCART, sì, abbiamo anche varie possibilità. Bisogna configurarlo in una certa maniera, prendere i segnali di sintonismo, miscelarli fino a composito con una perdita di qualità comunque del video. Perché Riccardi, cosa devi collegare con cosa? Il televisore del camper. E beh, esce VGA che cosa? Sì, non ho trovato la presa SCART, quindi gli ho collegato un cavo VGA. No, ho capito. No, se c'è un'uscita VGA è conveniente usarla con un monitor VGA perché riesce ad avere tutto quello che ti può dare VGA. Se basta una cucina per lo SCART, ti porta una presa SCART, la colleghi e sei a posto. Conviene fare così, se hai la possibilità di variare i formati, perché se no succede che da un formato all'altro bisogna accedere a compromessi per riuscire a ripianare i livelli e poi mischiare i sintonismi per riuscire ad avere un composito, comporta una ritraccia nel televisore che non è proprio la sua. Dunque in pratica ne viene fuori che anche se riesce a vedere qualcosa, stai sbagliando una frequenza di campionamento di una misura e l'immagine non è pulita come ti piacerebbe. Ah, ho capito, perché praticamente mi servirebbe una presa SCART che abbia alla fine il cavo HDMI maschio. Sì, c'è un convertitore apposito per utilizzare il composito, cioè per la idea, il segnale video composito è quello che passa nella per la scarta, ci passano sia da un verso che dall'altro i segnali video composito, l'audio sinistro e destro, quando è mono si usa solo il sinistro, e poi il segnale diviso in RGB in pratica, e c'è comunque la possibilità di avere un convertitore che dalla SCART, che praticamente prende il segnale RGB e l'audio, ti fa diventare HDMI, ma si parla di qualcosa che costa tipo 9 euro e io credo che Babbo lo sappia questo, mi è sembrato molto ferrato questa cosa. Stavamo cercando il Femina, però non l'abbiamo trovato. Sì, ci sono i due formati, puoi uscire in video normale, tra virgolette, e diventare HDMI, oppure addirittura scomporre l'HDMI per farlo diventare SCART. Ci sono tutti i formati. Se vai a frugare su Wish, scrivi SCART to HDMI, oppure HDMI to SCART, e vedi quello che ti viene fuori. Ci sono un sacco di cosettine che costano tipo 7 euro più spedizione, 12 euro più spedizione, e lavorano molto bene, cioè ce ne sono addirittura che si alimentano da sole o altre che vengono alimentate separatamente con un piccolo trasformatore, però fanno egregiamente il loro lavoro, molto meglio di quanto puoi pensare, che è una cosa che paghi 10 euro. Sì, K, grazie Fabio, facciamo un po' riprendere a Capri. Con il microfono Turner T2. E così è, insomma, tra microfoni chiusi, no? Non servite per mezz'ora elettronica. Questo è. Mi capi, ma questo cavo di utilità è tra il decoder che c'è in camper e il televisore? Tra la parabolica, l'antenna e la parabola. Perciò le modifica lei già ha un'uscita video? Sì. Ah, ho capito. Vabbè, da vedere, dai. Da vedere. Ma si ferma e ha dato qualcosa? Se riuscite un pochino. No, si è fermata, però non si vedeva niente e dava nessun segnale. Cappa, dai, se la linea con lo strumento, mette l'illuminatore e capire come si muove e cosa fa, potrebbe avere una presa di servizio. Prendiamo la modella, perché una presa di servizio è andata a servizio, perché direttamente si dà riuscite il risultato esercitale dell'illuminatore, dicevate, e si riesce con lo strumento a capire dove si contatta, capito? Per capire in quale parte del circuito in questo momento c'è una cosa che non torna. Secondo me è una fesseria. Ehi, quando lo accendi si orienta, ma potrebbe essere anche una fesseria, come dici tu. Campa, bellissimo, un giorno col camper c'era a fianco a me un signore con un altro camper più grande, più bello del mio, che sopra c'era la parabola automatica di ultima generazione, fighissima, solo che c'era qualche altro intorno, lui l'ha accesa e iniziava stava lì girando e nulla, io ho preso la scala ho preso la parabolina piccolina, quella da 40 cm piccola con la ventosa, lo strumentino, non ho fatto in tempo ad appoggiare, a tirare la ventosa per bloccarla sul tetto del camper, che ero già su un spirit. Gli metto lo spinotto, entro e inizio a guardare il Gran Premio. Quello ha sentito l'audio del televisore e la parabola continuava nuda, no? Alla fine ho detto, ascolti, ma voleva guardarsi il Gran Premio. E non lo so, ascolti, venga, vada a guardarselo. Troppo forte Fabio, avanti Muros. Molto bene, ti ascolto. Ti ascolto, fai passaggio. Sì, non è male, però l'altro sembrava con un tono più naturale. Sbagli, capì? Sì, hai ragione. Comunque ho detto troppo forte, sì. Io ho capito cosa ha detto Riccardino, cosa pensavi tu, perché ha fatto la risata mentre ridevo che ci volate il dito sul tastino. No, ma sei troppo forte con questo, il livello è più alto, ma la tonalità è migliore l'altro, mi sa, di questo, adesso per dire. Giusto Riccardino, perché io sto sempre in cuffia in questo momento e forse aspetta che stacco un pochino, ascolto meglio. No, già sono d'accordo. Guarda Gianni, così come eri perfetto. Secondo me sai cosa dovresti fare, io non è che voglio mettere le mani nella tua stazione, e soprattutto non le voglio mettere neanche a distanza, non ci mancherebbe. Però questo apparato così com'era, con il microfono che hai poco fa, è perfetto. E se lo lasci da parte così com'è, che esce quei suoi 10-15 watt, e va benissimo. Poi, visto che puoi calare l'Alan, senza metterci niente in mezzo, gli cali l'Alan a 4-4,5, tanto per non sparare troppo con l'Alfa Lima, e gli attacchi l'altro Alfa Lima, lì, poi ho questo microfono, tra l'altro mi sono sbagliato. contrario, con questo che stai provando adesso l'ARAN andava meglio. E così c'è due stazioni, una la usi così e l'altra la usi così, ma questo apparato come sta uscendo è troppo bello, ma troppo troppo bello, guarda, sarebbe da invidiarti, che io non conosco l'invidia, però bella cosa. Confermo e controbatto, no, già sta andando bene. Comunque Fabio, un giorno viene all'Argentina con noi in campeggio, che viene a volare. Scappa. Sì, ci devo riuscire. Ho una situazione un po' complicata e adesso vedo un attimo, ma me la cavo. Non so, forse è una questione di qualche giorno, speriamo perché ormai è più di un anno che ho le mani legate su molte cose, ma la situazione familiare è un po' complessa. Adesso vediamo un pochino come si evolve, magari sarà un pochino più libero e riuscirò a mettere in moto o con questo camper che ho qui a Sassari o mi porto da un altro camper e allora sì che sono in giro, con tanto di stazione, farò le SQL con un paio di apparati, porto le antenne e dunque argentiera, dove siete? Siamo qua, io ci vediamo di là, fighissimo. E anche noi ci organizziamo come SQL. Va, batti la scarica, aspetta che la cambio. Avanti muros! Grazie, speriamo bene che ti sistemi, perché so che, se non sbaglio, che lì dove abitate voi non prende neppure il telefono mobile, quindi l'unica è il telefono di casa. Scappa, abbiamo la batteria. Ci sente anche sulla modulazione o cambia la batteria? No, negativo, non cambia. Non cambia, però si spegne, capito? Smette di andare importante, perché lui c'ha un relè all'interno, quando devo il tasto in realtà non sto spegnendo, importante con delle lamelle, sto andando a corrente un relè, questo relè qui mi scambia la ricezione della trasmissione, dai. Comunque, purtroppo si è fatta la incenerentola, io devo cambiare il QTH, perciò se riesco dall'altro QTH vi ascolto, fino a quando non mi si chiudono gli occhi, se rimanete. E cosa fare con QRT, mi dispiace anche. Vi capisco, salutoni, e semmai ci sentiamo davvero domani, magari anche per telefono, così cerchiamo di capire se si può dare uno sguardo a questo sistemino qua. E niente, Gianni, non so che nulla, anzi, il microfono mi raccomando, rimetti l'altro microfono, che è spettacolare come esce veramente, complimenti. Grazie Gianni per il mic, saluto a Fabio e alle prossime, ti faccio sapere sulla storia del camper. Campa ragazza, buonanotte, dai, a domani allora, a domani, buonanotte. E soprattutto le stazioni in base, anche il vintage, il K lo uso così perché ero la più potenza, almeno lo faccio sentire a più parti, però le devo far girare tutte. Aspetto anche quello che parla Claudio, molto bello, la stazione base. No, quello che c'ha Claudio. Sì, il Midland. E già sono belli. Sì che l'ho cambiata. Da Blizzard 5 ottavi d'onda, la Sirio. Sirio Blizzard 5 ottavi d'onda. E vabbè, poi ne ho diverse sul tetto, però uso soprattutto questa. Cos'hai detto? Scusa, non ho capito, è la Tornado, la New Tornado. Ehi, già si assomiglia. Già si assomiglia! Accidenti, è pericoloso. No, ma infatti quelle cose lì, no, ormai superate una certa età, non resti a vista per quello. E comunque, a quanto ho capito, la zona è tranquilla, è come stare in campagna. È normale, però no, almeno non è necessario. Rispetto a quello è un paese tranquillo, infatti ci abita il collega di Babbo. Sì, al tuo paese. E di Ossi e fa il vigile urbano a Sassari. Sì, Tonino Urbino. Sì, sì, è lui. No, io no. Sono molti che si sono trasferiti da Sassari a Muros, ma la vedo sempre dalla 131, ma dove c'è l'ex distributore? Ci sono ancora gli zingari. No, però lo so che sono sempre cristiani, però dove vanno fanno il disastro. Però già una comunità li ospita e si comportano male. Incredibile. Non è possibile, incredibile, da non crederci. Babbo già lo vedeva sulla 131 e diceva: cosa stanno facendo questi matti? avrebbero arrestati tutti. Ah, mi ricordo l'ostello della gioventù. Me lo ricordo di questa notizia a Porto Torres, l'ostello della gioventù. Già lo so, infatti l'ho sentito. L'ostello della gioventù a Porto Torres ci hanno messo anche molto, ci hanno messo fatica a buttarli fuori. Lo fanno apposta per essere intoccabili. Un giorno Babbo ne ha visto una che rubava un bambino. Hanno su di noi qui. Come ti ho detto, un giorno Babbo ha visto una signora sinistrata e la zingara gli ha rubato il bambino. Babbo l'ha dovuta fermare in piazza Castello. La riprendo e alla faccio l'integrazione. Comunque a Babbo un giorno uno zingaro gli ha raccontato com'è che non siete rimasti in Romania invece che in Italia, e lui gli ha risposto che come li vedo in Romania li picchiano subito con la polizia, invece il qua è una pacchia, è un paradiso. Bobo, e se lo fai tu ti arrestano subito, subito, subito. Già, ne hai di queste storie proprio da raccontare?